dagli studi di Radio Valdarno, va ora in onda Otaku, pazzi per le sigle, con Chiara e Tommaso. Eccoci ragazzi. Buonasera. Arriva una nuova puntata di Otaku. 20 aprile. Passata la Pasqua. Passata la Pasqua. Fatto il pieno di cioccolato. Mamma mia, io ho iniziato tipo 2 settimane fa. Allora, una puntata particolare. Molto particolare. Io sono emozionata. Sì, infatti, io credo che la perderò metà puntata e mi toccherà condurre tutta. Ma io sono veramente... Allora, prima di tutto... Chi siamo? Chiara e Tommaso di Otaku, pazzi per le sigle. Ma queste domande improvvise. Il vostro programma delle sigle preferite. Beh, allora, ricordiamo i contatti. Certo. Oggi speriamo ci arrivino tanti messaggi, perché è una puntata... Quindi mandate messaggi al 339-6407-960, l'email radiovaldarno@gmail.com, il Facebook di Otaku, e anche comunque di Radio la pagina Valdarno. Di Radio Valdarno. Voglio ricordare, prima di iniziare, visto che la scorsa puntata non l'abbiamo detto, ha vinto nel dedicato ai Cavalieri del Re Yattaman, tutto questo man. Ma sono tutti uomini. Mentre la puntata in famiglia l'ha vinta una per tutte e tutte per giustamente una. Direi. Giustamente, la nostra prima era anche la nostra. Allora, dobbiamo dire una cosa importante su questa puntata, perché è la prima, è l'11ª puntata, se non sbaglio, di Otaku, sì. Ed è la prima puntata in cui non trasmetteremo neanche una sigla di Cristina D'Avena e neanche una scritta da Alessandra Valeri Manera. Per la sua gioia. Per la mia gioia. No, si riposa Alessandra. Si riposa, diamogli un attimo di tregua. Tra l'altro la qualità di stasera è altissima. Sì. Ci sono sigle scritte livello. Da grandi autori, cantate da grandi cantanti, sì. E che altro. Ah, poi non si è detto che la puntata su Robottoni. È la puntata, è la puntata su Robottoni. La prima parte. La prima parte, perché ce n'è talmente tante. Sì. Che forse sicuramente 2 puntate, ma forse anche 3. Ma anche 3 vedrai, sì, perché ci sarà anche Robottoni moderni. Anche perché c'è veramente l'integralista del Robottone che dirà: ma questo non l'avete messo. No, esatto. Aspettate, perché noi abbiamo quest'ora, un quarto, un'ora e mezzo, e quelli c'entrano. Le posizioni sono quelle. Non è che se ne può fare. Fare. Anche se abbiamo 2 sigle originali, possiamo dirlo. Sì, sì, perché c'è stato un attimo. Sì, di... c'è stato una contraddizione. No, dovevi mettere quel. No, si doveva dire. Scusa, stagista Wolf. devo smettere di parlare? No? Iniziamo. Mi fai gesti così con la testa, io non capisco. Iniziamo, ma è meglio. È meglio, dai. Iniziamo con la 10ª posizione con God Sigma. God Sigma. Che è una serie anime giapponese trasmessa dal 19 marzo 80 al 25 marzo 81 in e in Italia è arrivato ovviamente sui circuiti locali, perché in quelli degli anni ci salvavano loro, sempre nell'81, che invece di 50 episodi ne trasmisero 48. Di cosa parla? Vai, ti lascio a te la patata bollente. La terra del futuro viene attaccata dal malvagio impero di Hilda. A difendere i terrestri si erge il potente robot God Sigma, pilotato da Toshiya, Julian e Kiraken. La sigla italiana. Allora, è stata incisa dai monelli spaziali, che sono composti da il doppiatore Davide Lepore, che è, se non sbaglio, il fratello di Giorgia Lepore, ma sì, soprattutto è il doppiatore di Milhouse e di Gargamella dei Puffi. L'ultimo che siamo andati film a vedere. Puffi, ma hanno sì, doppiato veramente tantissime serie, film. Se non, anche i Griffin, se non sbaglio, era Steven dei Griffin. Comunque la voce è riconoscibilissima. È lui. E poi la canta Paola Pezzolla ed è pubblicata la sigla nell'81. Esatto. La musica è di Fabio Frizzi, che è il fratello di Fabrizio, e di Paola Pezzolla. Basta, si può partire. Prima sigla, 10ª posizione, God Sigma. Minacciano la terra, celando con noi la loro prepotenza. qualità stasera è altissima. Davvero. Andiamo avanti. No, una posizione. Vultus 5 o Vultus 5 per i puristi. In Italia venne trasmesso nell'83, sempre nelle reti noi non eravamo regionali, avanti. Perché comunque le reti, quelle comunque nazionali, non è che hanno no, investito li hanno tanto un po' snobbati sui robottoni, eh. Sì, Mediaset cioè, non ha mai sì, penso trasmesso, neanche recentemente, no, niente. No. Mangali ha ripresi, ma molti. Molti, ma no, Rai e Mediaset proprio sono. Eppure il mondo dei. Forse qualcosa la Rai. Forse. Intervengo dalla regia. Ma ora c'è il microfono. Ragazzi. Intervengo dalla regia per dirvi che in realtà nella fine degli anni 70, inizio anni 80, fu proprio la Rai a mandare in onda la maggior parte dei robottoni. Quindi grazie alla Rai. Quindi grazie Rai. E Mediaset. Non si fa. Allora, siamo su Vultus 5, anche questa è una sigla, dopo lo diremo, molto bella. E in un pianeta simile alla Terra, Boa Zan, vivono degli umanoidi altrettanto simili ai terrestri, con l'unica differenza di avere le corna, quindi delle personcine. Secondo le leggi dei Boa Zani, chi non possiede le corna può venire usato come schiavo. Che belle. La loro società presenta infatti questo e altri elementi relativamente arretrati, nonostante posseggano una tecnologia molto avanzata. I vestiti e gli ambienti ricordano quelli della Rivoluzione Francese. Ci sono spade, nobili, eccetera, eccetera. E qui ci si ricollegherà dopo il signor stagista muto. Perché esatto. Tadao Nagahama diresse i primi episodi di Lady Oscar. Capisci? È qui che si. Ha fatto supporre che la storia di Vultus 5, col tema della popolazione schiavizzata che si solleva contro un'aristocrazia, fosse influenzato dalle precedenti ricerche di Nagama sulla Rivoluzione Francese. C'è sempre un collegamento, Robottoni e Lady Oscar. Sì. Bello. Vai di sigla. Allora, Vultus 5 e Chico e Coha è un singolo discografico di Lori e Daniele, pseudonimo di Loriana Lana e Daniele Viri, pubblicato nell'83. Vultus 5 era la sigla dell'anime omonimo, scritta da Loriana Lana, che è era scritto quella di Pat, la ragazza del baseball, e corri come il vento Chicco. E Daniele Viri e qui abbiamo una sarebbe da discutere, perché lo danno come interprete della sigla di DuckTales e Chip e Chop Agenti Speciali, quando in realtà io personalmente so che la sigla di DuckTales è stata cantata da Mirko. L'abbiamo trasmessa là, esatto, Palleri forse, no? Patroni, insomma lui. E la musica e arrangiamento di Carlo Maria Cordio. Comunque, resta quindi il fatto, è una bella sigla. E noi, noi ce l'ascoltiamo, no? Una posizione Vultus 5. La pelle, sensazioni troppo belle, fa provare Vultus 5. In te dovunque Vultus 5 sarà, comunque Vultus 5 salverà chiunque Vultus 5. E questo dunque Vultus 5 batte forte il cuore dentro al petto. Vultus è un eroe perfetto, troppo forte Vultus 5. Sensazioni troppo belle, fa provare Vultus 5. E con te dovunque Vultus 5 vincerà, comunque Vultus 5 salverà chiunque Vultus 5. E questo dunque Vultus 5 batte forte il cuore dentro al petto. Vultus è un eroe perfetto, troppo forte Vultus 5. brivido che scorre sulla pelle, sensazioni proprio belle, fa provare Voltus Fai. Dico ovunque Voltus Fai. Sarà comunque Voltus Fai. Salverà chiunque Voltus Fai. E questo dunque Voltus Fai. Batte forte il cuore dentro al petto, Voltus è un eroe perfetto, troppo forte Voltus Fai. Di luce tra le stelle, col suo spirito ribelle sta arrivando Voltus Fai. Brivido che scorre sulla pelle, sensazioni troppo belle, fa provare Voltus Fai. Cioè, lo senti la qualità? Cioè, lo senti il tiro fino anni 70, 80, 80. No, beh, proprio bella. Allora adesso abbiamo parlato di Lady Oscar e quindi lanciamo, ormai è diventato uno di casa, il momento dello stagista muto. Prego. Grazie. Sigle brutte dal mondo. Allora, vi avevo promesso una sigla nuova. La scorsa settimana Holly e Benji ha riscosso un grandissimo successo. Ci siamo ricollegati al fatto appunto che l'autore di Voltus 5 avesse lavorato a Lady Oscar, e allora mi sono messo a spulciare la rete per trovare le sigle originali di Lady Oscar nei vari paesi. Ho paura. Io sono curioso. Io sono terrorizzata. C'è effettivamente da avere paura. Allora, partiamo. Questo è l'originale. E questo è l'originale. Se volete ve la canto, no? No, sarebbe meglio di no. Quella originale. Abbiamo passata, era la sigla originale della puntata Mai una gioia. Ecco. Paesi arabi. Attenzione, arriva il coro. Bella, eh? No. Sì, no, un corale. Però hanno mantenuto l'originale. Non sono i soli. Questa è la sigla catalana. No, non è, cioè, spagnolo catalano. La rossa de Versailles. Magnifica. Magnifica. Questa è quella coreana. Corea del Sud? Sì, Corea del Sud, ragazzi. No, non penso che... Corea del Sud, c'era di drama. Ciambi, bellissimo. Immagino parlare del Sud. Infatti mi ricorda qualcuno, non voglio fare in testa. Ora uno dice, i francesi, ambientato in Francia, gli avranno dedicato questa. Lady Oscar si vestiva come un ragazzo. Lady Oscar, non dimenticheremo mai il tuo nome. Questo è il tenore della sigla. No, eppure voglio dire, ce l'hanno lì in casa. Vabbè, questa è Cristina. No. Come no? No. Chi è questa? È la sigla tedesca. Guarda, tedeschi, ce l'hanno presa. Allora, marcetta militare, lingua tedesca, uno pensa male. Bravo. Però è bella. Lei è molto brava. Sì. Sarà che questa base musicale è bella la sigla. Io sto piangendo, ma non si vede, però mi sa. però brava, bella. E quindi si conclude qui il nostro spazio. Bravo. Sigle brutte dal mondo. La prossima settimana, a sorpresa. Ecco, io ho una richiesta. Queste cose mi fanno paura. Io ho una richiesta. Ecco. Però te lo dirò in separata sede. Andiamo avanti. Bene. Ottava posizione della nostra classifica. Uh-huh. Andiamo con un robottone che ha mille nomi, ovvero sarebbe Getter Robot, però è diventato Space Robot. Però è anche Getta Robot, quindi c'è un gran casino sulla sigla, insomma. Mamma mia, io mi sto già... Sì, perché frascato. Praticamente è un anime televisivo di 51 episodi del 72 di Gonagai, tra l'altro. È stata trasmessa in Italia con il titolo di Space Robot, mentre in realtà era Getta Robot. Durante il primo passaggio televisivo, solo 39 episodi sui 51 vennero doppiati. In seguito l'ha ripreso la Yamato, che ha pubblicato l'intera serie in DVD, grande, includendo anche gli episodi mancanti. E tra l'altro non so se è già finito, comunque passava tutto su manga prima di Occhi di Gatto, per questo l'ho visto. Get Robot è stato il primo robot componibile e trasformabile. Il nome stesso del robot ricorda tale caratteristica. In giapponese, infatti, la parola Gattai significa non gatto nostro, ma unione o trasformazione. Quindi, praticamente, ora un po' di trama. No? Mentre sta studiando le peculiarità dei misteriosi raggi Getter, per usarli come fonte di energia, il professor Sao Tome... Non è il babbo di Rana. Ecco, infatti, io mi ricordavo lui. Si rende conto che la Terra è in gravissimo pericolo. Il popolo del regno dei dinosauri, rimasto in ibernazione sin dal Mesozoico, si sta risvegliando e si prepara a riconquistare il pianeta che un tempo gli apparteneva. Sao Tome, quindi, costruisce un robot, il Getter Robot, e si mette alla ricerca di tre piloti in grado di utilizzarne appieno le tre diverse configurazioni. Alla fine sono scelti Ryoma Nagare, Hayato Jin e Musashi Tomoe, e con loro alla guida il Getter Robot affronterà la minaccia venuta dal passato. La sigla italiana. La sigla italiana è di Vito Tommaso e cantata dai Mini Robot. Su questo cartone animato, che è di Gonagai, appunto, abbiamo detto, si è creata, appunto, come si era detto, la confusione. Perché era Getter Robot, Space Robot, bla bla bla, Jet Robot. È uscito in Italia nel 74 col nome di Space Robot, e da qui la confusione, come si diceva, che diciamo alla fine ha preso il nome di Jet Robot. Comunque noi ci siamo persi su tutti questi nomi, lanciamo la sigla perché io non so più da che parte. Ottava posizione, Space Robot, Jet Robot, Jet Robot e tutti i robot. Space Robot, go! Chiara, vuoi dire dove siamo stati il lunedì a Pasquetta? Allo Stibert, perché c'è la mostra fino al 10 settembre Robot Fever, che io vi consiglio assolutamente di andare a visitare perché ne vale la pena, sia che siete appassionati o non appassionati. Tra l'altro il Museo Stibert è bellissimo a prescindere, quindi ci sono le sale giapponesi restaurate, andate a vederlo, e con il biglietto appunto vi potete godere della mostra Robot Fever, in cui ci sono dei giocattoli meravigliosi tema robottone. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere come guida il curatore Francesco Ristori, che spero ci stia ascoltando. Bravissimo. Che è bravissimo e se non lo fermate parla per ore, talmente appassionato. E quindi sulla nostra pagina Facebook c'è un'intervista e una piccola guida del museo. Volevamo salvare un pezzettino audio, ma è stato un po' difficile per la radio. Quindi sulla nostra pagina Facebook il video Robot Fever al Museo Stibert è iniziato adesso il 14 d'aprile e durerà fino al 10 settembre, quindi non avete scuse, andate a vederlo. Cari amici di Radio Valdarno, io sono Francesco Ristori del Florence Toy Museum. Parleremo della mostra Robot Fever che noi del Toy Museum, Eugenio Casini e Francesco Ristori, abbiamo portato al Museo Stibert grazie alla collaborazione con il direttore Enrico Colle e Riccardo Franci, studioso di antichità medievali giapponesi. Vi ringrazio, accorrete numerosi anche alla mostra, vi aspettiamo per maggiori dettagli. Ciao! Settima posizione troviamo il Grande Mazinga, che è una serie televisiva Chiara si è persa, io ve lo dico. Ah, il Grande Mazinga è una serie televisiva anime creata da sempre Go Nagai. La serie è composta da 56 episodi e si inserisce nello stesso universo narrativo al quale appartengono anche Ufurobo, Goldrake e Mazinga Z. Il Grande Mazinga, testi di Franco Migliacci, cioè che non è il primo che passa, è l'uomo che ha scritto Nel blu dipinto di blu. Fatti quindi mandare dalla mamma a prendere il latte. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, ma anche Aiden, Chobi e Carletto il principe dei mostri. Quindi è un signor autore. Grande. Grande, grande. Musica e arrangiamento di Massimo Cantini, cantata dai Super Robots. Allora, curiosità. Ecco. Molti pensavano che fosse Piero Pelù a urlare Mazinga, invece no, era Franco Migliacci. Cioè, ragazzi, ma il Grande Mazinga di che anno è? Come poteva Pelù? Di che anno è Pelù? Ora ci informiamo su che anno, di che anno è Pelù. Ora, ci avrà una cinquantina d'anni Pelù, però insomma però, penso, secondo me, cioè Pelù gli hanno fatto, dice che cantava qualsiasi cosa, ma invece no. Quindi, vabbè. Ora mentre ci informiamo su Piero Pelù, settima posizione, il Grande Mazinga. Con i suoi cubi atomici Mazinga zinga, luce atomica, a zinga, a radiologica, a zinga, spirale penetrante, a zinga, lava atomica, a zinga. Il 62, a 14 anni non poteva fare ma zinga. Quindi risolto. Quindi non era più lui. Era Migliacci. Allora, adesso abbiamo un ospite. Io sono veramente emozionata perché di parlare con lui, perché a parte che è il blogger Doc Manhattan, quindi l'antro atomico, blog storico, compiuto 10 anni se non sbaglio, e dove trovate di tutto su videogiochi, cartoni anni 80, film, insomma tutte cose che piacciono a me, ma è soprattutto l'autore di Tokyo, la guida nerd, ovvero il... la guida per eccellenza del nerd che va a Tokyo. Cioè noi abbiamo usato questa cosa qui più della Lonely Planet. Quindi noi la vediamo. Quindi è qui, facciamo una foto magari dopo. Sì. Però insomma, se dovete andare a Tokyo dovete avere questo. Anche perché credo che ci siano cose che ci sono di normale non no, puoi sapere. No, ad esempio, ma non... Nakano Broadway o le statue alla stazione di Oizumi, ecco, non lo sapresti se non fai una ricerca accurata e... oppure lo leggi qui. Ovvio. Quindi sentiamo, diamo un po' voce all'ospite. Sì, guarda, sono emozionata. Pronto? Mi senti? Sì, ciao. Ciao Alessandro, benvenuto a Otaku. Ciao. Allora, ciao. Io sono Chiara, lui è Tommaso. E ciao Alessandro. Sei su Otaku, pazzi per le sile. Allora, io ti ho introdotto un po' come il mio guru dei viaggi a Tokyo, perché, guarda, sono onorata di parlare con te perché, cioè, ti ho veramente usato più della Lonely Planet. Comunque, ti abbiamo chiamato stasera perché noi stiamo per parlare di Gundam e tu sì. sei di ritorno da un viaggio a Tokyo, quindi sì. sei una delle ultime persone ad aver visto il Gundamone gigante. Penso tipo l'ultima, perché lo stavano smontando, stavano tirando via gli ultimi pezzi che erano le gambe, quindi è stata questa scena molto triste, siamo arrivati lì e stavano togliendo via gli ultimi pezzi che erano rimasti. E sì... tra l'altro negli anni mi è capitato di vederlo ovviamente quando c'era, quando l'avevano appena messo lì davanti al Diversity di Odaiba e mi ha fatto un effetto molto strano, sai, perché era diventato talmente tanto un simbolo della città anche per i turisti non otaku, no? Cioè non nerd. Anche perché io ci sono stata a luglio, era impossibile non notarlo perché era una cosa pazzesca, cioè, ma la cura nei dettagli, era meraviglioso, infatti il fatto che non ci sia più mi dispiace. Sì, anche io pensavo sarebbe rimasto lì in eterno, cioè sarebbe sopravvissuto, che sarebbe sopravvissuto a noi tutti, e invece niente. C'è questo progetto, adesso lo sostituiranno con l'Unicorn, ci metteranno un altro Gundam, e avevano in progetto in realtà di farne una versione aggiornata, che muovesse anche le braccia. C'era questo progetto per il 40° anniversario della saga, che si avrà tra 2 anni, no? Nel 2019. Però non so, perché in realtà quando lo smontavano si vedeva che era proprio arrivato, cioè all'esterno sembrava ancora nuovo, ma dentro era mangiato dalla ruggine, anche perché ecco. tutti quegli sbuffi di vapore d'estate, come avrei visto, producevano delle cascate d'acqua che venivano giù, quindi sì, poi esposto alle intemperie. L'umidità giapponese è pazzesca. Sì, che uccide anche gli elefanti, quindi insomma era ridotto maluccio, quindi... temo che questo modello qui se ne faranno ben poco. Una nuova versione magari dovranno rifarlo da capo, restaurarlo completamente, perché era, ho visto davvero le parti interne, sembra brutto dire le parti interne del Gundam, sembra lo stomaco del Gundam, no, ma in realtà le parti non esposte, no, non coperte dalla corazza, certo. mentre le smontavano ho cercato di rubarmi una mano ma purtroppo non era possibile. Poi in aereo sarebbe stato un problema. Nel bagaglio a mano temo forasse un po' i limiti sia di peso che di volume una mano del Gundam mi scala 1-1, però ci ho provato, niente, non c'è stato niente, verso, non è andata. No Senti, noi stiamo per lanciare la sigla storica di Gundam. Se vuoi lanciarla tu, intanto ci salutiamo. È con vivissimo piacere, perché è una sigla che ricordo ancora come se fosse oggi. Sembrano passati 30 anni e sono passati 30 anni, ma è davvero, davvero una delle sigle che mi piacciono ancora, che mi piace ancora oggi ascoltare. Quindi la lancio con grande piacere. Perfetto, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo. Anzi, io... uso questo spazio per personale. Noi stiamo per andare a Tokyo, sia a Kyoto e Osaka, quindi ti chiederò consigli nerdosi in privato. Ti ringraziamo. Molto, molto volentieri. Grazie a voi per l'invito. Allora, quindi Gundam. Gundam. Nessuno ce la fa contro Gundam. Gundam. Gundam. Gundam. Gundam. Oh. Gundam. Gundam. Gundam. Gundam. Allora, siamo innanzitutto Alessandra Preda. Guarda, per questo intervento. Ho visto quando hai una persona che ammiri, io c'ho lui. È stato veramente carino. Bello, sì. Allora, su Gundam ci sarebbe da scrivere una Bibbia, sì, o comunque ci sarebbe da dirne una talmente puntata solo tante su che si arriverebbe all'ultimo dell'anno. Però, diciamo qualcosa, insomma, di importante sulla sigla italiana, che è stata incisa da Mario Balducci con lo pseudonimo di Peter Ray. Che lui nomina all'interno sigla. Ecco qua, sono Peter Ray. Scritta da Andrea Lovecchio, autore di successi come Lucia San Siro per Roberto Vecchioni e poi per Mina, Rumore per Raffaella Carrà. Rumore, voglio dire. La canzone più bella di sempre. Ecco, quindi come potete notare in queste sigle c'è dei grandi compositori. Grande qualità. Non si può dire niente. Su musica e arrangiamento del mio amatissimo Detto Mariano. Arrangiatore tra i più famosi in Italia, ha collaborato con molti artisti, tra i più noti Celentano, Mina e Lucio Battisti. Mina... insomma, un grande detta di autore. Appunto, che le sigle sono la puntata di stasera è veramente qualitativamente... Beh, e ora arriva un bel momento per te, perché credo, quando io vi dicevo che Chiara la perdo, ecco, da qui in poi io la perdo, perché è il suo momento della sigla originale. La sigla originale. Allora, per la sigla originale di stasera io mi sono impuntata. Sei felice? No, sono veramente felice perché... Allora, è la sigla di Evangelion. E per me la sigla di Evangelion è la canzone più bella mai scritta nella storia mondiale della musica dell'universo. Perché... Ora lui ride, lo stagista muto, ma... Insomma... Diciamolo che io nei karaoke di Tokyo... ero a cantare ad alta voce in giapponese con parole a caso la sigla di Evangelio, perché per me è proprio scene bello. Meravigliose, sì, diciamolo. Ci sono, sì, dei video compromettenti. Sì, assolutamente. Allora, su Evangelio anche qui si potrebbe dire l'universo, questi 26 episodi della Gainax, il viaggio, la trama, che è anche un po' oltre i robottoni, sì, della puntata, sì, di stasera, per questo che c'è, sì, stato un po' di... Però la sigla è talmente bella che io me la volevo ascoltare. Dai, potevo ascoltarla per cavoli tua? No, la volevo mettere in puntata perché è proprio bella. Adesso con i microfoni spenti io me la canto tutta. Quindi la sigla è Zanzo Zankoku na Tenshin no Tese di Yoko, sì, sì, Takahashi. Stai attento, il regista muto. Me la taglia? Sì, regista, non più stagista. Ah, è passato di grado? Quindi. No, non te la taglia. Apri il microfono e ascoltiamo te. Stai attento. Davvero? Ma io farò. Stai attento. Tipo boccheggiando. Quindi, ragazzi, in piedi, tutti in mani al cielo. La sigla di Evangelion. Zankoku na tenshi no yō ni shōnen yō shinwa ni naru. complimenti per la scelta della sigla originale. L'abbiamo persa, quindi sentite soltanto la mia voce. Io sto cantando internamente la quindi... cosa dell'angelo crudele di Evangelio. Addio. Quando siamo arrivati a realizzare la scaletta di questa puntata, e Chiara comunque ha scelto come sigla originale Evangelion, c'è stata una ribellione da parte di suo fratello. Sì, che ha detto no! La vera sigla originale che dovete mettere in questa puntata è questa. Beh, la sigla originale deve essere quella di Tekkaman, quella originale giapponese. E poi bravi che risvegliate i vecchi ricordi dell'infanzia. Ecco, e con questo messaggio abbiamo capito che dovevamo mettere Tekkaman. Quindi abbiamo due sigle originali. Ci rilancia il jingle? La seconda sigla. La sigla originale. Allora, Tekkaman, prodotto nel 75, è frutto di un periodo in cui la casa di produzione Tatsunoko prendeva spunto dai supereroi americani realizzando anime come Arigen Polymar, Kyashan e Gatchaman, rivisitati e adattati ovviamente alla cultura nipponica. I prodotti così nati si dimostrano di grande successo, giungendo in Italia tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Vedi perché lui dice questo? Perché lui è di 76 e io sono dell'84, il mio fratello. Non te, stai citando, il mio fratello. Indico lui, ma parlo di mio fratello. C'è una faida familiare. Vedi, Tekkaman fu trasmesso in Italia per la prima volta nel 79. E gli alieni di Waldaster, capitanati dal perfido generale Rambos, agli ordini dell'imperatore Dobrai, vogliono conquistare l'intero pianeta. Durante uno di questi attacchi, l'astronave del capitano Minami, braccio destro del dottor Amachi, viene distrutta e il figlio George, sconvolto dalla morte del padre, giura vendetta nei confronti degli extraterrestri. Allora, c'è da dire un particolare. Che praticamente l'interprete giapponese, che è Ichiro Mizuki, è il Cristina D'Avena nipponico. Sì. Bene, perché l'ha cantato tutte. Ha cantato Mazinga Z, il grande Mazinger, Tekkaman, Jigurobo d'acciaio, Combattere Five, Capitan Harlock, Voltron, tutte. Quindi abbiamo Cristina D'Avena nipponico. E lanciamo allora questa seconda sigla originale, Tekkaman. Moero taiyo, kakero Tekkaman, yami ni ugomeku waru dasu ka. Kudaite hoshikuzu, uchuu no hate ni, kirameku ginga ni, chichi no na yobeba, hitosuji nagareru namida boshi. Yaru zo Pegasus, tekuseta. Uchuu no kishi, Tekkaman. Yaru zo Pegasus, tekuseta. Uchuu no kishi, Tekkaman. Posso dire che David aveva ragione, che questa è un capolavoro di sigla. Alessandro, dai. Non lo dire, perché questa cantura mi si scatena. Allora, e mi diventa un Pikachu tutte le trone. Tra le altre cose particolare e interessante, questa è stata una delle prime sigle giapponesi che si sono sentite in Italia. Cioè, senza Evangelion è meraviglioso, un altro livello. Comunque, al 339-640-7960 diteci se preferite Evangelion o Tekkaman. L'ha presa io, bene, io voto, io mi mando un messaggio da sola di Evangelion. Avevo dubbi, meno male, l'ha presa bene. Aspetta, perché quando si spengeranno i microfoni entra una belva. Eccoci, sapevo. Quinta posizione. Arriva una sigla che a me piace tra i robottoni, che è Daltanius. Il robot del futuro Daltanius, il titolo originale. È una serie anime di genere mecha prodotta dalla Sunrise e dalla Toei Animation. Il nome del robot è ispirato a quello di D'Artagnan, il protagonista del celebre romanzo di Dumas, I Tre Moschettieri. Pensa, lo dovresti appena scoprire. Visto? La serie è composta da 47 episodi e fu realizzata nel 79 e trasmessa per la prima volta in Italia nell'81, anche qui dai canali regionali. Da noi i vari... I vari Italia 7, Rete 37, sì, Europa 7, Europa 7, tutti 7. In altre regioni d'Italia non lo so. E, appunto, è uno dei più popolari, appunto, rimasti in Italia. Vero. Andiamo avanti. Beh, la trama la diciamo di la prima. Sì, da, allora, nel 1995 è ambientata nel futuro, che è il nostro passato. La Terra subisce il massiccio attacco degli alieni a Kron, che in breve tempo costringono sotto il loro dominio varie nazioni. Il Giappone in particolare è ridotto in rovina e i sopravvissuti vivono una vita di stenti in baraccopoli di fortuna. Quelli più fortunati sopravvivono tramite il mercato nero, mentre gli altri non rimane che la carità e il furto. A quest'ultima categoria appartiene il gruppo di bambini e adolescenti composto da Danji, Sanae, Mita, Hiro, Tanosuke e Manabu, e guidato dall'audace Kento. Nel corso di un loro tentativo di furto, i sei si imbattono in una grotta che conduce ad una base sotterranea dove giace in ibernazione il dottor Hernal. La pronuncia accidentalmente proprio, Kento e i suoi compagni lo risvegliano e portano alla luce la sua base, causando l'immediata ritorsione degli Akron. A questo punto il dottor costringe Kento e Danji a mettersi alla guida rispettivamente del robot Antares e Gamper. E i due sorprendentemente riescono a tenere testa all'attacco e a sconfiggere gli Akron sul campo di battaglia. La sigla italiana. La sigla, che è bellissima, è scritta anche questa da Migliacci, su musica di Massimo Fantini e arrangiamento di Alessandro Centofanti, che è uno che ha collaborato con Francesco De Gregori, Ron, Rino Gaetano e Mia Martini. Eseguita dai Super Robots e cantata da Rino Martinez. L'esclamazione D'Artagnan, anche qui, non è Piero Pelù, povero Piero Pelù, lasciatelo stare, ma è sempre Migliacci. Quindi, quinta posizione, D'Artagnan. Thank you. rame brillante. Allora, ora terza posizione, siamo, no, quarta posizione, scusate, mi ero persa un pezzo. Siamo su un grande classico, su Daytime 3. Esatto. È uno dei più famosi. Sì, c'ha questo personaggio un po' respirato a James Bond, se non sbaglio, con queste computer reiha di spalla, la bionda scema, ma... l'amore intelligente, questi stereotipi. Lo ricordo, sì. La serie è composta di 40 episodi, fu realizzata nel 78 e trasmessa per la prima volta in Italia nel 1980. Un grande classico, appunto. Sì, in quanto... E da questo cartone sono nate due cose molto interessanti. Il primo è il gruppo dei meganoidi, cioè talmente famoso nell'immaginario popolare, appunto il gruppo dei meganoidi, e poi il fumetto Don Zauher, che riprende il nome dal cattivo di Daytime 3, che era una serie di Emiliano Pagani e Daniele Caluri, che era sul vernacolare. Quindi per dire l'importanza di Daytime 3 nel... Cavolo. Quindi, la sigla... Sì, è sempre dei Micronauti. Ah, questo va detto importantissimo, che i Micronauti sono i fratelli Balestra. Nell'80 incidono la sigla Daytime 3 sotto lo pseudonimo Micronauti, che è il lato B del singolo Anna dai capelli rossi. Da che era il titolo della sigla era Come le piume nei petti rossi, che era incisa con lo pseudonimo con dei ragazzi dei capelli rossi. Sono sempre loro, capito? Nell'81 iniziano una collaborazione con i Super Robot cantando Candy Candy, che è pubblicato con lo pseudonimo Rocking Horse. Quindi sono sempre loro. Pseudonimo. Sono sempre loro. Il testo è di Luigi Albertelli e la musica e arrangiamento di Vince Tempera, il tuo amico. C'è da dire una cosa. Sì. Giovedì scorso è successa una cosa un po' brutta. Che l'illustratore, l'animatore e character designer di Daytime 3 purtroppo c'è stato un incendio in casa ed è morto arzovivo con la moglie, sì, quindi purtroppo è successa questa cosa. Povero uomo. Infatti. Cioè, dopo questi grandi successi. Infatti, sì, ma lui ne ha fatti tante, cioè... anche i Cinque Samurai, molte cose. Infatti ricordo, ma una fine così tragica. Infatti, peccato. Quindi peccato. Torniamo alla nostra... A sorridere. Con la quarta posizione. Daytime. Energia solare. trio allerta. Anche noi siamo un trio allerta e pieni di brio. Davvero? Eravamo un senza duo. Volere, eravamo un duo. Adesso siamo un trio. E siamo un trio perché, insomma, e proprio perché no, siamo un trio, il prossimo diamo la parola al regista muso. Allora, anche più ferrato, diciamolo, che... noi sì, siamo sì. Mi sono un po' persa su queste le saghe dei... Rivogliamo Cristina. Allora, no, il terzo posto troviamo Goldrake, che in tanti non sanno che fa parte di una trilogia. Quindi l'autore è sempre Gonagai, che è l'autore di Mazinga, Goldrake e anche Uforobo, che infatti si trova spesso catalogato come Goldrake Uforobo. Ma anche Atlas. Atlas. O Atlas Uforobo. Poi dopo diciamo una cosa particolare su questo Atlas Uforobo. Goldrake, che troviamo al terzo posto, diciamo è l'ultimo robot della trilogia dei Super Robots praticamente. E quindi è sempre sono lo tutti collegati. Cartone. Esatto. È come se fosse Sailor Moon, Sailor Moon la Luna Splendida, quindi, e Sailor Moon che sarebbe il cuore. Pilota è sempre lui. In italiano gli hanno cambiato il nome, però alla fine è sempre lo stesso. Sempre lui. Sì, sì, sì. Ecco, dove era la cioè, ritorna. Lui. Poi c'è un cambio di pilota a un certo punto, però c'è sempre questo Trade Union che è il pilota originale di Mazinga. Cosa? Il tre? Trade Union. Oh. Vai, ormai finisci di annunciare, vai Goldrake. Allora, abbiamo detto che è un anime televisivo composto da 74 episodi, che è stato prodotto molto lungo, rispetto agli altri. Sì. Dalla Toei, dal 75 al 77, quindi bello lungo. Il manga era uscito nel 73. Un successo particolare l'hanno avuto le due sigle italiane, con il relativo LP che conteneva la colonna sonora della serie. Uforobo, la prima sigla, sfondò il tetto del milione di copie, raggiungendo la quarta posizione dei singoli più venduti. Goldrake invece raggiunse la settima posizione, vendendo comunque anche lui oltre 700.000 copie. Anche per l'epoca era tanta roba. Anche per oggi, direi. No, infatti. Entrambe le sigle sono state scritte da Luigi Albertelli, che è famoso per aver scritto, tra altre cose, Non voglio mica la luna e Ricominciamo di Pappalardo. Su musica e arrangiamento dell'onnipresente Vince Tempera e Ares Tavolazzi, che è un ex membro degli Area, che era un gruppo prog italiano, e Massimo Luca, che poi è diventato l'arrangiatore ufficiale di Gianluca Grignani. E tutte queste sigle confluirono nell'album Atlas Uforobo. Quindi, bando alle ciance, vi facciamo sentire direttamente la terza posizione con il mitico Goldrake. Bye. ma il regista muto, visto che è salito di Alabarda spaziale. Bravo, è stato bravo. Bello intervento, bravo. Intervento, sì. Seconda posizione. Seconda posizione. Anche allora, qui una sigla attribuita al povero Piero Pelù. Ma non è lui. Ma lasciatelo cioè, ragazzi, stare. Ma a 14 anni Piero Pelù poteva avere una voce del genere? Non so se è nato già quando piangeva faceva... Ma sì. Beh, insomma, così la comunque, torniamo vabbè. Al nostro robottone. Seconda posizione. Un signor robottone, Gig Robot d'acciaio. Esatto. La storia tratta del risveglio dal sonno millenario dell'antico popolo Yamatai, governato da Imika e dai suoi tre comandanti, Ikima, Amazo e Mimashi. A contrastarli interviene Hiroshi con Jig. Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime di 46 episodi, prodotta sempre dall'onnipresente Toei, sempre nel 75. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 79, dove ha riscosso un notevole successo, paragonabile solo a quello di altre serie del genere come UFO, Goldrake e Mazinga. La sigla italiana fu cantata sulla base originale giapponese scritta da Michiaki Watanabe. L'uso del mini moog è stato ideato e sovrapposto sulla base originale dal musicista Carlo Maria Corbio. All'epoca della registrazione nel 79, la Mythic Music non esisteva ancora e l'etichetta discografica che mise in commercio la versione originale italiana fu la CLS Records di detto Mariano. Roberto Fogu, senza gente sulla U finale, in arte Fogus, fu scelto quale interprete da Giuseppe Giacchi, amministratore delegato della CAM. Fogu era un pianista romano che prestò la sua voce sia per questa sigla che per Ryu, il ragazzo delle caverne. I cori della sigla furono affidati ai fratelli Balestra. Quelli di, che abbiamo sentito prima, quelli dal Tanis. Esiste una seconda versione della sigla di Jig, interpretata dai Super Robots, curata da Olimpio Petrossi e pubblicata dalla RCA italiana, sempre nel 79, come lato B. Ma noi trasmettiamo la grandissima sigla di successo. Quindi adesso ce la cantiamo tutta. Prego, seconda versione. Fuori ragazzo. Passato arriverà. qui c'è sempre stato, continuava la leggenda come interprete di Piero Pelù, ma in realtà non era Piero Pelù perché aveva 17 anni all'epoca, quindi si torna a dire come poteva essere lui. Nell'occasione però nel 2008, visto che hanno rotto sempre le scatole, Piero Pelù ha inciso, diciamo, una propria versione di questa famosa sigla. Beccatevi la sigla di e la potete ascoltare sul web, quindi senza problemi. C'è una curiosità carina su questa sigla, ce la dice te, stagista? Sì, scusa, regista. Regista. In pratica, ha detto Mariano, non pensava che avrebbe avuto così tanto successo questa sigla, e allora lasciò alla casa discografica la possibilità di metterla come B-side da qualche altra parte. Quando in realtà un amico che possedeva un negozio di dischi gli disse: guarda che qua sta venendo gente a nastro a chiedere la sigla di Gigrobo d'acciaio, la devi pubblicare. E la pubblicarono così in fretta che presero le prime due immagini a caso che avevano della serie, tant'è che nella copertina del primo singolo di Gigrobo d'acciaio non c'è Gig, perché non avevano idea di che fattezze avesse Gig, ma c'è Amaso, che è uno dei cattivi della serie. Faccia di pietra. Sì, infatti. Sono belle queste storie. Bello. Ora non. Insomma, ora visto con internet o il web, no? Sì. Però all'epoca era bello. Che questo è un grande successo di Detto Mariano, io non lo posso. Allora, c'è il mio momento. Sì. Dai. C'è il mio momento. Quindi la sigla di Piano. La sigla dimenticata. Allora, le ricerche come sigla dimenticata hanno portato a una serie televisiva tratta ovviamente dall'omonimo manga. Si compone di 73 episodi, è stata trasmessa in Italia per la prima volta nell'81, sempre sulle nostre amate reti locali. La vicenda vede come protagonista Daigo, un ragazzo molto estroverso, figlio del dottor Otaki, geniale scienziato che dopo essere fisicamente morto è stato computerizzato, ovvero sia prosegue la sua esistenza senza più disporre del proprio corpo e vive così all'interno comodo. Del computer. Comodo. Vedi? Avanti. È tipo Siri. Esatto. La storia è ambientata a Victor City, una città futuristica il cui passato nasconde però un grande segreto. Allora, la sigla in questione è Gordian, testo di Lucio Macchiarella, musica di Franco Michalizzi, cantata dai Super Robots. Quindi... chi ha voluto la guerra. Sì, io non la ricordavo pochissimo, quasi assente nei miei ricordi, però bella. Quindi sì, abbiamo finito la prima puntata sui robottoni, speriamo sì, ne arriveranno minimo un'altra due. No, ce ne sono. Sì, cioè, quando vai a spulciare i robottoni te ne spuntano come funghi. Sì. E quindi niente, ne facciamo volentieri, ci facciamo aiutare perché insomma sì, è un tema in cui siamo un po' meno ferrati. Sì. Io davvero. La settimana prossima torniamo nei nostri cenci. Sì, perché c'è un tema bellissimo. Cambiamo totalmente. Sì, perché affronteremo la magia anni 90. Con due ospiti colorati. Eccezionali. Molto colorati. Colorati. Sì. E niente, questa puntata tra poco sarà sul podcast. Noi vi ringraziamo. Scriveteci se abbiamo detto castronerie, probabile. Sì, sì, perché... probabile sulla fanpage, oggi, sulla mail oppure il numero di telefono. Che dire? Noi salutiamo con l'ultima sigla vincitrice, che è Atlas UFO Robot. Allora, qui c'è da aprire una parentesi enorme. Sì, enorme. Che? Ah, scusate, jingle. Prima posizione, jingle. Questa è la numero uno! Allora, qui c'è una gran confusione. Perché? Mi sono scordata di dirlo. Come nasce il primo robottone? Go Nagai nel 72 è nel traffico di Tokyo e pensa, ah, come sarebbe bello avere una macchina che si alza in piedi, prende il volo. Quello che abbiamo pensato tutti. E qui e lì nasce il gran... no, Mazinga Z, se non sbaglio. Mentre in Italia il primo è stato... trasmesso UFO Robot, che era il terzo di questa trilogia, quindi è stata fatta una gran confusione. Tra l'altro il protagonista è sempre lui, Koji Kabuto, che però prende tre nomi diversi, quindi viene chiamato Ryo in Mazinga Z e Alcor in UFO Robot. Quindi la trama ne fa un gran... non ci capisce tanto, anche perché noi stessi per cercare le trame, le sigle, insomma c'è questa gran confusione. Tra l'altro il discorso Atlas, come funziona il regista muto? Il discorso Atlas è abbastanza semplice. In Francia Atlas è il modo in cui vengono chiamate le guide televisive. I produttori italiani che comprarono dalla Francia il cartone non sapevano dell'esistenza di questo termine e quindi pensavano che facesse parte del titolo del cartone. In realtà Atlas non è TV Sorrisi e Canzoni UFO Robot. Esatto. Figura, è come se fosse TV Sorrisi e Canzoni UFO Robot. E quindi è rimasto solamente in Italia perché per un errore di traduzione da parte dei produttori. Hai visto? No, sono quindi era una rivista, tipo un settimanale. È la maniera in cui si chiamano le francese. Sì. Hai visto? Quindi chiudiamo la puntata sui robottoni con UFO Robot, che è un singolo del gruppo Actarus, pubblicato nel 78, scritto da Luigi Albertelli su musica di Vince Tempras e Ares Tavolazzi. Il successo del disco fu enorme, tanto da ottenere il disco d'oro per il superamento del milione di copie vendute, toccando la quarta posizione della classifica di singoli e risultando il 18° singolo più venduto in Italia nel 78. Shooting Star, tra l'altro, è la sigla di coda della serie, che è il lato B, scritta da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera e Ares Tavolazzi. Quindi, vi salutiamo con la prima in classifica. Tutti a cantare UFO Robot.